Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Particolare novità, stiamo aspettando alcuni pareri, poi prenderemo le decisioni. Giorni. Sì, giorni, settimane, insomma, comunque appena avrò la possibilità di condividere con i miei colleghi, come sapete ho preso la decisione di condividerla con i miei colleghi di governo, prima col Presidente del Consiglio. Avete sentito la ministra De Micheli dei Trasporti e delle Infrastrutture, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, che ha anticipato uno dei temi che sono sul tavolo del vertice di maggioranza che è in corso ancora in queste ore, in questi momenti, vertice di verifica, la verifica del governo, insomma, per ricompattarsi dopo il voto delle regionali e per trattare appunto i nodi principali che dividono questa maggioranza, che sono la questione delle concessioni autostradali, di cui appunto avete sentito questo passaggio della ministra De Micheli, e poi l'ex Silva e la questione della prescrizione. Ma c'è al centro della giornata di oggi un'altra notizia di cui ci occuperemo, a parte la politica, e che è quella del coronavirus, che ci ha, diciamo, riguardato molto da vicino come Italia, perché c'è stato un blocco di una nave praticamente nel porto di Civitavecchia, una nave da crociera Costa Smeralda, con a bordo 6.000, i dati sono, prima si parlava di 6.000, poi di 7.000, insomma migliaia di turisti che aspettavano chi di sbarcare, chi di procedere ancora, chi di prendere un treno, un aereo, una coincidenza. Però ci sono stati due casi sospetti che hanno tenuto la tensione alta tutto il giorno, due casi sospetti a bordo di una coppia cinese. Poco fa è arrivata la notizia che i test diagnostici sono negativi, quindi non hanno il coronavirus, hanno i sintomi dell'influenza, ma non si tratta di questo virus che sta allarmando praticamente tutto il mondo. Però nella giornata il sindaco di Civitavecchia ha chiesto di non autorizzare lo sbarco. Finora non c'è stato, adesso man mano vedremo gli aggiornamenti che sono arrivati di momento in momento. Quindi varie cose importanti di cui occuparci anche oggi, così come il record secondo l'Istituto Meteorologico Britannico che ci sarà di caldo nei prossimi 4 anni. Insomma, tutte buone notizie per dire, per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure se volete inviate le vostre riflessioni, i vostri commenti tramite SMS o WhatsApp al 349 238 6666 e poi durante il giorno, se volete, Twitter, Roby con la Y, linetta bassa, Giordano. Coronavirus, sono risultati negativi i test sui due turisti cinesi a bordo della nave da crociera bloccata in giornata a Civitavecchia con 6.000 viaggiatori a bordo. Il no del sindaco, ospite Effetto Notte, ferma lo sbarco. Governo in corso il vertice di maggioranza, andiamo avanti spediti e compatti, afferma Conte, il paese ha bisogno di risposte. La strage senza fine delle donne per mano maschile, massacrata di botte, una donna muore dopo 3 giorni, fermato il marito, l'ennesimo femminicidio è avvenuto a Mazara del Vallo. In Alto Adige una donna è morta in casa, probabilmente soffocata, ha interrogato il convivente. Il rapporto Eurispes sugli italiani, aumentano i negazionisti dell'olocausto, nel 2004 era il 2,7%, oggi oltre il 15%. Maturità, doppia prova, greco-latino e matematica fisica, per il secondo anno il test sarà multidisciplinare. Clima, caldo record nei prossimi 5 anni fino a più 1,62 gradi, lo indicano le previsioni dell'Ufficio Meteorologico Britannico. Partiamo quindi dal caso della nave da crociera Costa Smeralda, appunto bloccata a Civitavecchia per due casi sospetti di coronavirus. Dopo una giornata di attese e di tensione col sindaco di Civitavecchia, che ha chiesto di non autorizzare lo sbarco per questioni precauzionali, in serata è arrivato l'esito dei test diagnostici. I due turisti cinesi sono risultati negativi. La nave però a questo punto partirà domani con molta tensione a bordo anche dei tanti turisti. Ce ne occuperemo, ne parleremo con il sindaco di Civitavecchia e con il virologo Pregliasco. Per quanto riguarda la politica italiana, vi dicevo, in corso il vertice di maggioranza, Conte ha detto andiamo avanti spediti e compatti, il paese ha bisogno di risposte. Al centro di questa verifica di maggioranza i principali nodi, cioè le concessioni autostradali, i destini dell'ex Silva e la riforma della prescrizione. Tra poco cerchiamo di capire che direzione sta prendendo questa verifica di governo. Nel frattempo l'Istat diffonde la stima provvisoria su occupati e disoccupati di dicembre 2019. I dipendenti a termine, ovvero i precari, a dicembre aumentano di 17.000 unità su novembre, arrivando a toccare quota 3.123.000, lo rileva l'Istat. Si tratta di un nuovo massimo storico, resta invariato rispetto al mese precedente anche il tasso di disoccupazione giovanile, quindi tra i 15 e i 24 anni, che si attesta al 28,9%, intanto è scontro frontale sul fronte Whirlpool. I sindacati non ci stanno e proclamano lo sciopero contro la volontà ribadita da Whirlpool di chiudere lo stabilimento di Napoli. La decisione di posticipare lo stop della produzione al 31 ottobre, annunciata ieri dall'azienda al tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico, ha scatenato le proteste dei lavoratori. I sindacati hanno indetto 16 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti italiani della multinazionale. Le prime 8 ore scatteranno domani con articolazione territoriale, mentre la data per le altre 8 verrà definita nelle prossime settimane. Gli accordi sullo sviluppo dello stabilimento vanno rispettati, dice la segretaria FIOM Francesca Re David. Noi chiediamo che venga rispettato l'accordo e che lo stabilimento non venga chiuso e che questi mesi vengano utilizzati per convincere l'azienda che non può fare proprio come gli pare. Il governo intanto è impegnato anche a definire il complicato dossier ex Ilva dopo l'annunciato addio di ArcelorMittal. C'è la possibilità di un'intesa, dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ci stiamo aggiornando ancora, torneremo ad aggiornarci. C'è un progetto di accordo, ci sono ancora dei dettagli da definire. Conte non esclude la possibilità di un incontro con Mittal nei prossimi giorni. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E a proposito del coronavirus, c'è da segnalare che poco fa da parte dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è arrivata questa dichiarazione, cioè che l'emergenza è globale a questo punto, che è un'emergenza globale. Nei giorni scorsi aveva detto che il rischio era moderato nel mondo, poi elevato, adesso ha proprio parlato di un'emergenza globale del coronavirus. Ma intanto passiamo, prima poi di trattare questo tema con l'approfondimento e con gli ospiti, al rapporto Eurispes 2020 che è stato presentato oggi. Italiani più negazionisti e intolleranti, questa la fotografia scattata dal rapporto Italia 2020 di Eurispes. Aumenta il numero di chi pensa che la Shoah non sia mai avvenuta. Nel 2004 erano solo il 2,7%, oggi il 15,6%. 6 italiani su 10 ritengono che i recenti episodi di antisemitismo siano casi isolati, che non sono indice di un reale problema. Per meno della metà del campione sono il segnale di una pericolosa recrudescenza del fenomeno. Un quarto degli italiani, rileva l'indagine, ha un rapporto negativo con gli immigrati e da uno su tre vengono visti come una minaccia all'identità nazionale. Cresce anche la convinzione che gli stranieri tolgano lavoro agli italiani. 10 anni fa lo pensava il 10%, oggi il 35%. In questo scenario non stupisce il dato sulle persone favorevoli allo ius soli, diminuite di oltre 10 punti dal 60% al 50%. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi ne parleremo col vice direttore dell'Eurispes e poi passiamo alla strage senza fine delle donne per mano maschile. Anche questo parla del nostro paese. Una donna di 52 anni è stata uccisa dopo essere stata picchiata a Mazara del Vallo, vicino Trapani, la scorsa notte nell'abitazione in cui viveva con il marito. L'uomo di 53 anni è stato fermato. Secondo le indagini della polizia avrebbe massacrato di botte per 3 giorni la moglie, sino a causarne la morte. Gli agenti sono intervenuti dopo che l'uomo aveva chiamato il 118 segnalando il decesso della moglie, dicendo che era morta sul letto. La donna è stata trovata riversa sul letto matrimoniale con gravi segni di percosse e sangue nella stanza. Dalle prime testimonianze emergerebbe una storia di abusi e maltrattamenti per cui la donna pareva aveva anche presentato alcune denunce, ma in almeno 2 occasioni aveva però poi proceduto a ritirarle. E poi la donna trovata morta a Versiaco in Valpusteria, in Alto Adige. Una pakistana di 28 anni era incinta, è stata trovata morta nel suo letto. Non è escluso che la donna possa essere stata soffocata. Gli inquirenti stanno interrogando il marito o compagno della donna, un pakistano che lavora come stagionale in una pizzeria a Versiaco. La coppia viveva in condominio. E ora all'estero, Gran Bretagna, della mezzanotte di domani, 31 gennaio, il Regno Unito sarà ufficialmente fuori dall'Unione Europea e dalle sue istituzioni. Inizia così la sua lunga fase transitoria e tempo di nuove trattative. I viaggi di Radio 24. E a questo proposito, quarta puntata del viaggio su Brexit in questa settimana, che appunto domani porterà all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Oggi ci concentriamo sul futuro dei nostri connazionali residenti oltre Manica, che come altri 3 milioni di europei guardano con preoccupazione al loro futuro nel Regno Unito dopo l'entrata in vigore di Brexit. Si stima siano 700.000 gli italiani presenti sul suolo britannico. Se fossero una città, sarebbero il quinto capoluogo nazionale dopo Torino e davanti a Palermo. Per loro, tra due giorni si aprirà una nuova fase, nel corso della quale diverranno a tutti gli effetti cittadini di paesi terzi. Almeno nell'immediato, però, non c'è da preoccuparsi. Fino al 31 dicembre non cambia assolutamente nulla nella libertà di circolazione, come ci spiega Luigi Maria Vignali, direttore della DG Italiani all'estero della Farnesina. Non cambia nulla perché i negoziati sono stati condotti all'insegna dei cittadini prima, come priorità anche italiana, e quindi tutti gli italiani che già vivono nel Regno Unito potranno continuare tranquillamente a risiedere. Certo, devono aver ottenuto il cosiddetto set status, cioè si devono essere registrati in pratica presso le autorità britanniche. E cosa accadrà a chi si trasferirà oltre manica tra febbraio e dicembre? Si potrà continuare a chiedere il settled status? Assolutamente sì, fino ovviamente alla fine del periodo transitorio, fino al 31 dicembre del 2020. Certo, bisogna poi registrarsi, ottenere il set status chi già era lì e può continuare a maturarlo fino ai 5 anni. Chi invece non l'ha ovviamente ancora maturato perché si trasferirà dopo febbraio dovrà chiedere il pre-set status e potrà restare in Gran Bretagna finché non maturerà i 5 anni. Il problema si pone sul nuovo sistema di immigrazione che entrerà in vigore nel 2021 e che dipenderà dai negoziati sulla nuova partnership tra Unione Europea e Gran Bretagna. Il premier Boris Johnson insiste sulla sua preferenza per un sistema di ingresso a punti sul modello australiano. L'ambasciatore Vignali resta però ottimista. Non abbiamo mai avuto un'ipotesi di sistema a punti all'australiana per adesso, non potrei escluderla del tutto, però certo noi favoriremo un altro tipo di esito, mantenere un sistema il quanto più possibile simile a quello che già abbiamo. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi passiamo al piano di Trump, presidente americano, per la pace in Medio Oriente, presentato nei giorni scorsi, con subito la presa di posizione molto dura del presidente Abu Mazen palestinese, che ha respinto il piano. Oggi il primo ministro palestinese Shtayyeh ha detto la proposizione di un regime di apartheid è questo piano che legittima il progetto coloniale di Israele in Cisgiordania. Rigettiamo il piano, afferma il premier palestinese, propone un regime di apartheid che legittima il progetto coloniale di Israele in Cisgiordania. Look at this map. This is the Palestinian. Alla CNN Mohamed Shtayyeh sventola le mappe di quello che diventerebbe il territorio palestinese e conclude: per nessun motivo al mondo accetteremo. La soluzione di Trump con due stati, Gerusalemme capitale in divisa di Israele, meno territorio ma più soldi ai palestinesi, non conta sostenitori ora in Medio Oriente, al massimo ascoltatori. I sauditi che esprimono apprezzamento per gli sforzi di Trump, Egitto ed Emirati che invitano i palestinesi a valutare. Ma dalla Giordania all'Iran e alla Turchia è un coro di no. Il premier israeliano oggi è stato a Mosca. Vorrei discutere con lei e ascoltare la sua posizione, ha detto Netanyahu al presidente Putin. Stiamo studiando e studieremo ancora il piano, ha risposto il Cremlino, non dispiacendo per ora né ad Ankara né a Washington. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Di nuovo in Italia parliamo di maturità 2020. La ministra dell'istruzione Azzolina ha comunicato le materie appunto per la prossima maturità. Per il liceo scientifico le materie saranno matematica e fisica, per il liceo classico greco e latino. Il ministro dell'istruzione Lucia Azzolina annuncia così in un video le materie che 500.000 di studenti dovranno affrontare per la seconda prova di maturità il 18 giugno, dopo che il giorno prima si saranno cimentati con il tema greco e latino al classico, matematica e fisica per lo scientifico dunque, e poi la lunga lista per gli altri licei, per gli istituti tecnici professionali disponibili sul sito del ministero e sui canali social sotto l'hashtag maturità 2020. Tra le novità introdotte dal suo predecessore Fioramonti, il ritorno della storia nel tema e l'addio alla lotteria delle tre buste all'orale. Il colloquio sarà invece pluridisciplinare con la commissione che predisporrà uno spunto al candidato. Novità anche per i commissari esterni. Daniele Grassucci di scuola.net. Quest'anno la prova di italiano è affidata ad un commissario interno, mentre la seconda prova, quella di indirizzo, ad un commissario esterno. Lo scorso anno fu esattamente l'opposto perché la maggior parte delle novità riguardavano appunto la seconda prova e quindi si cercò di facilitare i ragazzi con un membro interno in correzione rispetto ad un esterno. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Per chiudere, delle previsioni per quanto riguarda i cambiamenti climatici. I prossimi 5 anni tra il 2020 e il 2024 potrebbero essere i più caldi degli ultimi 150 anni, con picchi fino a 1,62 gradi centigradi superiore alle temperature medie globali dei livelli preindustriali. Colpa dell'aumento dei gas serra, lo indicano i modelli elaborati dal computer dell'Ufficio Meteorologico Britannico. Il record appartiene finora al 2016, che ha registrato una temperatura di 1,16 gradi superiori ai livelli preindustriali. Di questo parleremo con un esperto di cambiamenti climatici e comunque di clima. Stanno arrivando già diversi vostri messaggi e anche a proposito domande sul coronavirus, eccetera. Adesso già ieri le abbiamo fatte appunto a uno specialista, il professore dello Spallanzani. Adesso parleremo tra poco con il sindaco di Civitavecchia, perché la nave, in realtà, anche se due casi sospetti sono stati esclusi, nel senso che sono risultati negativi i test diagnostici, però la nave rimane bloccata, c'è stata della tensione oggi a bordo. Ne parleremo tra pochi istanti. Pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti, oppure inviateli via SMS e WhatsApp al 349 238 6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti come sempre ricchissimi di informazioni, di aggiornamenti in diretta, poi la sintesi della giornata e gli approfondimenti con gli ospiti e naturalmente anche i vostri commenti tra la pagina Facebook di Effetto Notte e gli SMS e WhatsApp al 349-238-6666, i vostri commenti sui fatti principali del giorno, che sono questi. Coronavirus naturalmente che continua a allarmare a livello internazionale, l'OMS poco fa ha dichiarato il virus emergenza globale, e poi per quanto riguarda l'Italia sono risultati negativi i test su due turisti cinesi a bordo della nave da crociera bloccata in giornata a Civitavecchia con 6.000-7.000 viaggiatori. Adesso chiederemo definitivamente qual è il dato più preciso. C'è stato il no del sindaco oggi allo sbarco per questioni precauzionali. Tra poco sarà qui ospite Effetto Notte. Governo, in corso il vertice di maggioranza. Andiamo avanti spediti e compatti, afferma Conte. Il paese, dice, ha bisogno di risposte. E poi la strage senza fine delle donne per mano maschile, massacrata di botte, una donna muore dopo 3 giorni, fermato il marito, l'ennesimo femminicidio a Mazzara del Vallo vicino Trapani. E in Alto Adige una donna è morta in casa, probabilmente soffocata, viene interrogato il marito. Avete sentito del rapporto Eurispes sugli italiani? Aumentano i negazionisti dell'olocausto, nel 2004 il 2,7%, erano, oggi sono oltre il 15%. Poi per la maturità sono venute fuori le prove, doppia prova, greco-latino e matematica fisica. Per il secondo anno il test sarà multidisciplinare. E poi previsioni per il clima che arrivano dall'Ufficio Meteorologico Britannico: sarà caldo record nei prossimi 5 anni. Quindi concentriamoci naturalmente sul tema che sta tenendo prepotentemente banco qui, naturalmente Effetto Notte, nei giornali radio e ovunque nel mondo, che è quello del coronavirus, che sta allarmando appunto a livello internazionale. Tanto è vero che l'Organizzazione Mondiale della Sanità poco fa, insomma in tarda serata, ha dichiarato il virus emergenza globale. L'ultimo bollettino, l'ultimo bilancio dei contagi parla di 7.711, tra i quali 1.370 che sarebbero persone in gravi condizioni, e i morti sono oltre 170. Però vi dicevo che questo allarme internazionale oggi ci ha coinvolti particolarmente da vicino, anche se sapete, abbiamo parlato più volte in questi giorni che l'Italia è molto attrezzata, preparata, l'OMS stesso l'ha detto che l'Italia in Europa è quella, diciamo, più pronta a affrontare l'emergenza. Oggi c'è stato questo caso della nave da crociera Costa Smeralda che doveva fare scalo a Civitavecchia, qualcuno doveva scendere, qualche turista, qualcuno invece doveva proseguire. Bene, oggi su questa nave sembrava che ci fossero due casi sospetti di coronavirus, una coppia cinese, una donna e un uomo. Subito è stato mandato del personale dell'ASL sulla nave, che questo personale ha svolto tutti gli esami del caso. Poi i campioni sono stati mandati all'ospedale Spallanzani di Roma per le analisi urgenti. Bene, c'è stata, è una situazione che si è protratta naturalmente durante tutto il giorno, perché bisognava fare naturalmente con molto scrupolo questi esami diagnostici. Intanto a bordo c'è stata un po' della tensione, del disagio, naturalmente sono 6.000-7.000 persone, adesso chiariremo poi anche il numero perché ci sono stati un po' di balletti oggi, che si è ritrovata bloccata, blindata, sigillata su su questa nave, immaginate naturalmente la tensione, il disagio, insomma comunque per una questione precauzionale doveva rimanere per il momento così la situazione. Il sindaco di Civitavecchia aveva chiesto proprio che non ci fosse lo sbarco ed è qui ospite in collegamento Ernesto Tedesco. Buonasera sindaco. Buonasera, buonasera a voi. La ringrazio per la disponibilità visto che non è stata una giornata facile per lei e immagino che non lo sia tuttora, insomma, no? Poi impegnativa. Intanto saluto e poi lo sentiremo il professor Fabrizio Pregliasco, virologo del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell'Università degli Studi di Milano. Professor Pregliasco, buonasera, bentornato. Professore, poi dopo lo recuperiamo. Allora, sindaco Tedesco, quindi intanto vedevo dagli ultimi aggiornamenti che la nave può essere messa in libera pratica sanitaria, si dice, no? Le autorità sanitarie. Sì, tecnicamente sì. Sì, per cui potrebbe ripartire in realtà, cioè chi deve scendere scende. Chi deve... Presumo domani a questo punto, perché immagino che non partirà stanotte, però questo poi non riguarda il mio ufficio, chiaramente. Allora, abbiamo cercato di raggiungere anche Costa Crociere, che sembrava fosse disponibile insomma per intervenire, per chiarire alcuni aspetti, però poi dopo evidentemente non ha avuto più questa disponibilità. Sindaco, lei perché oggi ha deciso di chiedere che non fosse autorizzato lo sbarco di questi turisti che dovevano scendere a Civitavecchia nel porto? Beh, io ho ragionato in maniera coerente con il mio ruolo, quello di tutelare la salute dei cittadini di fronte a questa situazione. Peraltro non c'è mai stata una situazione di allarme o di pericolo, per carità, però di fronte a questa situazione, così come è stata rappresentata, mi è stato detto questa mattina, comunicato ufficialmente, che la nave era lì ormeggiata, che c'era questo caso di questa donna cinese, che c'erano degli accertamenti sanitari in corso da parte della direzione sanitaria marittima, che tra l'altro era impedito lo sbarco, il sbarco sulla nave stessa. Io ho chiesto alle autorità competenti, ho chiesto che questo, diciamo, questa limitazione allo sbarco fosse mantenuta fino a che lo Spallanzani non avesse comunicato gli esiti degli esami. Ma questo l'ho fatto, ripeto, sia in funzione del mio ruolo di sindaco e quindi delle funzioni principali che mi riguardano per quanto riguarda la salute dei cittadini, e poi anche per un fatto logico, perché immaginare che scendano dei passeggeri con un esame in corso l'avrei trovato veramente quantomeno inopportuno, diciamo così. Senta, c'è già qualcuno che dice: ma allora anche per il sindaco di Civitavecchia si prefigura il reato di sequestro di persona come Salvini? È una cosa completamente diversa questa, insomma. Ma no? Io non ho sequestrato, anche perché guardi che io non ho emesso nessun provvedimento, per carità. Io mi sono limitato a chiedere, di fronte però a una situazione un po' particolare, cioè il fatto che qualcuno ha detto facciamo scendere 1100 persone, ho detto ma scusate, ma che fate scendere 1100 persone, ma in base a che cosa? Se non sono arrivati ancora gli esami, certo. È tutto naturale, ma io non ho potuto bloccare nessuno perché non ho il potere di farlo. Del resto poi tutto quello che è avvenuto poi è stato confermato dal fatto che di lì a poche ore è arrivata una comunicazione da parte della capitaneria di porto, nella quale si diceva rimangono a bordo in attesa delle notizie che arriveranno dallo Spallanzani. Poi per fortuna tutto si è risolto, meglio così. Lei ha capito se sono 7.000 o 6.000, perché c'era un continuo balletto fino anche adesso di turisti. Ma guardi, sui numeri ci perdiamo, 6.000, 7.000, insomma comunque sono navi di grandi capienza, sono città che galleggiano, per cui... Sono delle specie di grattacieli sul mare. Senta, esatto. Ma alla fine, forse mi sono persa questo passaggio, cioè sono scesi quelli che dovevano fare sbarco a Civitavecchia, dei 6.000 o 7.000 che sono sulla nave? A questo punto, no, che lei sapeva. Per quanto mi costa, non è sceso nessuno, cioè non è sceso nessuno fino a quando non si è perfezionato quel parere medico, quella comunicazione medica dallo Spallanzani. Adesso non so se è sceso qualcuno, ma per quanto ne so ancora no, però posso... Non è di mia competenza, gli imbarchi non sono di mia competenza. Io ho la necessità di tutelare la mia collettività e quindi di fronte a una situazione del genere mi sono limitato a chiedere di procrastinare lo sbarco in attesa delle comunicazioni da parte dello Spallanzani. Col capitano come è andata la comunicazione, il capitano della nave, il sindaco Tedesco? Ma non l'ho mai sentito io, anche perché ripeto, anche in questo caso io non ho rapporti col capitano. Rapporti col capitano c'era il comandante della capitaneria. Io non interloquisco minimamente nelle dinamiche del porto e soprattutto nei rapporti di questo genere. Quindi... Non mi compete. Se lei ancora solo un attimo, sindaco Tedesco, prego. Ecco, c'è in linea appunto anche Fabrizio Pregliasco, professor Pregliasco. Professore, buonasera. Buonasera. L'avevo presentata prima e c'era un problema di linea. Professor Pregliasco, prima che il sindaco ci lasci, lei ha sentito appunto come si è comportato oggi, diceva appunto per precauzione, perché magari immaginando che scendessero 1500, quasi 2000 persone, magari si poteva anche diffondere il panico nella città di Civitavecchia, oppure comunque ci poteva essere il rischio, secondo lei, di contaminazione, non sapendo appunto quelli erano i due casi sospetti, ma chissà mai che magari nel frattempo non ci fosse stata anche ulteriore diffusione. Cosa pensa lei? Ma di fatto appunto le analisi hanno confermato una negatività per questi pazienti. La situazione purtroppo ci vede sempre in difficoltà nel discernere fra l'influenza che purtroppo stiamo subendo qui in Italia e in tutta Europa e con manifestazioni cliniche simili. Quindi senz'altro le azioni rispetto ai casi sospetti devono essere di massimizzazione dell'attenzione, questo però dal punto di vista istituzionale, ed è questa una cosa ben fatta e ben fatta da ogni operatore sanitario, anche in questo caso i medici di bordo. L'elemento poi che si inserisce anche in questo caso ovviamente è un po' di panico, di paura o comunque di non percezione insomma dell'attività positiva di evidenza dei casi più come dire sospetti, rispetto a una paura che tutta l'attenzione dei media di questi giorni ha alzato, io dico in modo eccessivo, rispetto almeno al rischio che corriamo qui in Italia. Però, quindi professor Pregliasco, quindi è stato comprensibile diciamo l'azione, sì, almeno l'auspicio del sindaco Ernesto Tedesco di essere tranquilli, esattamente. Essere tranquilli. Sindaco Ernesto Tedesco, quindi può andare a dormire tranquillamente. Buon sonno. Grazie. Grazie, un saluto a Civitavecchia allora. Grazie sindaco, buon lavoro. Buona serata. Allora, professor Pregliasco, quindi l'abbiamo mandato a dormire sonni tranquilli il sindaco Tedesco. Lei diceva che quindi c'è un'agitazione, un'attenzione, un allarmismo un po' esagerato, anche se poco fa ricordavo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato proprio definitivamente che si tratta di un'emergenza globale. Certo, perché in questi casi oggi dobbiamo essere al massimo dell'attenzione. Rispetto al passato, quando subivamo le epidemie senza poter far nulla, oggi l'organizzazione interna delle istituzioni, la capacità di diagnosi ci permettono di bloccare, e io ritengo, sarà una battaglia non immediata, ma di tamponare la diffusione di questo virus, come già stato fatto anche per la SARS e anche per il coronavirus della sindrome medio orientale, ma anche dell'epidemia, della pandemia da virus H1N1. Sicuramente è possibile che persone ancora muoiano, che persone si ammalino, perché davvero un'epidemia ha una forma a curva se lo si mette su un grafico. Siamo nella fase molto ascendente, la speranza è di riuscire a far sì che il calo ci possa essere, ma anche qui non sarà un calo comunque a precipizio, sarà una progressione via via di riduzione di casi. Tutto questo se il grosso sforzo della Cina avrà un effetto realistico. Io credo che però questo impegno, che forse in Europa non si attuerebbe e che invece è sistematicamente attuato dai cittadini cinesi, sia un qualcosa che difenderà loro, ma difenderà anche il mondo da questa diffusione. Professor Pregliasco, tra l'altro, a proposito di Cina, proprio oggi il presidente cinese Xi Jinping ha detto che i funzionari che non seguiranno le sue indicazioni contro il coronavirus di Wuhan saranno puniti in caso di violazione della gestione delle risorse, di atti illegali o di bugie e falsificazioni materiali. Sappiamo anche che hanno metodi piuttosto pesanti in Cina, però questo per dire la tensione e l'attenzione anche che c'è, no? Nel senso, per tutta la popolazione cinese, più di 1 miliardo di persone, anche per non sconfinare eccessivamente fuori, perché sarebbe un danno sia nella pratica ma anche d'immagine della Cina, chiaramente. Più volte è stato anche dall'OMS sottolineato in questi giorni la inedita trasparenza della Cina nel gestire e nell'informare su questo virus. Sicuramente anche per gli aspetti politici, quindi anche in questo contesto internazionale di confronto anche piuttosto energico e muscolare con gli Stati Uniti e il resto, ma io credo che per loro sia anche importante l'aspetto politico interno, cioè di poter dimostrare che l'attuale regime è in grado di far fronte a un'emergenza importante. Quindi credo che per loro il consenso interno sia l'elemento determinante, però ha in questo caso direi effetti positivi, io spero e penso anche per la possibile, il possibile rischio di pandemia che è la paura dell'OMS, ma è giusto in questi casi a mio avviso, almeno dal punto di vista istituzionale, immaginare lo scenario peggiore, lo scenario che può in qualche modo far più paura se vogliamo alla comunità, ma che invece ci permette di stringere le maglie e ridurre la possibilità di diffusione di questo virus. Professor Pregliasco, fra l'altro veramente ruotano gli occhi all'infinito in queste giornate, perché seguo costantemente ogni aggiornamento. Adesso vedo in questo momento c'è un caso sospetto di coronavirus in Calabria, riguarda una donna di 36 anni che era tornata ieri dalla Cina facendo tappa a Vienna e rientrando poi in aereo in Italia con tappa a Roma e trasferimento successivo a Lamezia. La donna che vive a Roma insieme a due fratelli si è sentita male mentre era a casa insieme ai familiari, insomma un caso sospetto. Ogni poco viene fuori un caso sospetto, per ora fino a qualche ora fa sembrava che non ci fosse, tutti i casi sospetti erano stati esclusi poi qua in Italia, no professor Pregliasco? Adesso vediamo questo caso in Calabria. A me sembra una cosa positiva, cioè la capacità del Servizio Sanitario Nazionale di individuare casi sospetti, perché appunto è fondamentale tenere il più alto possibile l'attenzione, però non è la preoccupazione del cittadino, deve essere il nostro Servizio Sanitario Nazionale che dimostra questa capacità di reazione e credo che in questi giorni lo abbia dimostrato. Dice Fabio, panico per un virus che uccide nel 2% dei casi, è pazzesco, poco fa vedevo un aggiornamento e al 3% sarebbe la mortalità, ma comunque ritenuta bassa, professor Pregliasco. Ma sì, il problema è che il rischio pandemia c'è in quanto è un virus nuovo, nessuno di noi ha anticorpi e quindi siamo tutti suscettibili, quindi lo scenario è quello possibile per esempio dell'influenza spagnola del 1918, il 35% della popolazione colpita, non sono morti tutti questi ammalati, però l'effetto globale su quella dimensione epocale di contagi ha determinato almeno 50 milioni di morti, qui la problematica è sui grandi numeri ed è per questo che bisogna fermare l'incendio prima che diventi imponente. Ieri mi ero collegata con un cittadino, con un manager modenese che era bloccato a Wuhan, dove era andato giorni prima per la sua azienda importante nel settore della ceramica, e diceva che appunto era blindato dentro l'hotel insieme a quattro colleghi, così come altri italiani che si trovano a Wuhan e altri europei che dovrebbero essere riportati ognuno nel proprio paese, i nostri connazionali naturalmente in Italia. Sembra che dovrebbero ritornare tra dopodomani, ma non è ancora sicuro, che staranno in quarantena probabilmente per 14 giorni, leggo, quanto cioè è stimata l'incubazione del coronavirus, probabilmente in una struttura militare. Sì. Di fatto è una fake news, credo. È vero che a Wuhan c'è un bellissimo laboratorio molto efficiente a livelli elevatissimi di sicurezza. Tutto è possibile, ma ritengo che sia davvero una tesi complottista, non la realtà. Il virus lo conosciamo, abbiamo la sequenza genetica e vediamo che è derivato da pipistrelli, probabilmente con un passaggio in altre specie animali. Comunque insomma vedremo poi gli italiani per tornare dove saranno collocati per questo periodo così giusto, così sì, di test diagnostici e di sicurezza. Professore, per chiudere leggo solo quest'ultima agenzia che è arrivata dell'OMS, una precisazione rispetto all'emergenza globale, dice: la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica comporta raccomandazioni che non sono vincolanti ma che sono praticamente politicamente significative. Questo è la precisazione in un tweet del direttore generale dell'OMS a Ginevra. È importante questa azione coordinata, io spero che la situazione non degenererà, ci saranno altri morti, forse altri malati, ma spero in questa capacità di organizzazione importante. Grazie professore Fabrizio Pregliasco, grazie anche per il suo lavoro. Buona grazie serata. Professore, buona serata. Ci prendiamo allora, come sempre a questo punto, una pausa di respiro, di riflessione, anche se volete continuare con i vostri commenti, messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349 238 6666. che sono numeri per SMS e WhatsApp. Dice un ascoltatore: ma per caso questa è un sinonimo di una storia che si ripete, visto che ciclicamente arrivano queste epidemie? Lo vedo adesso il messaggio, sarebbe da girare al professore. Poi qualcuno dice: ottima notizia il fatto che la coppia cinese a bordo della nave da crociera sia risultata negativa ai test. Qualcuno addirittura dice: peggio dell'ISIS perché è invisibile, più nocivo. Certo, sono questioni diverse al di là dei paragoni. Comunque, ci risentiamo tra pochissimo, torno ratta come la folla. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, non siate egoisti, ditelo a parenti, amici, amori e conoscenti, in modo che anche loro possano ascoltare tutte le sere dalle 21 alle 22 con me, Roberta Giordano, dal lunedì al venerdì, è quello che di più importante è successo in Italia e all'estero, e poi gli approfondimenti con gli ospiti che aiutano a chiarire, a comprendere meglio gli argomenti in primo piano. Abbiamo per esempio parlato adesso molto diffusamente di coronavirus, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha detto che si tratta definitivamente di un'emergenza globale. Però il professor virologo Fabrizio Pregliasco ci ha anche detto che, insomma, di contenere gli allarmismi, perché per come è andata finora, insomma, diciamo, è tutto da tenere sotto controllo con molta attenzione, in modo serio, vigilante, eccetera. Però per quanto riguarda l'Italia, le misure sono pronte da tempo per la prevenzione e eventualmente per affrontare dei problemi. E così anche si parlava della Cina, di come sta agendo con misure molto drastiche in questi giorni. Poi avete sentito del caso di Civitavecchia, abbiamo sentito il sindaco di Civitavecchia che ha detto: io ho cercato in qualche modo di salvaguardare la salute della cittadinanza non facendo sbarcare, finché non si è saputo fino alla fine, che i due sospetti sulla nave da crociera che era bloccata lì nel porto di Civitavecchia sono risultati in serata negativi al coronavirus, sembravano oggi appunto invece avere questa forma di polmonite. Comunque, insomma, l'allarme è internazionale e non possiamo fare altro, dice questo ascoltatore. Il coronavirus è una questione molto seria, ben vengano i controlli di prevenzione che non sono mai abbastanza, e così molti altri messaggi. Però adesso invece chiediamo delle buone notizie, visto che poi parleremo anche dei prossimi 4 anni che potrebbero essere, secondo l'Istituto Meteorologico Britannico, i più caldi da 150 anni a questa parte, almeno delle buone notizie della nostra Betta Fiorito in diretta dai Palazzi Romani. C'è in corso questa verifica di maggioranza del governo, dacci tu buone notizie, illuminaci, cerca di lanciare un raggio di sole, benché sia sera, sulle nostre menti. Cioè, diciamo che c'è una balcanizzazione in atto a Palazzo Chigi, ecco. Quindi ognuno vuole una per cosa. Per i cavoli suoi, sì. Sì, ognuno va un po' per i cavoli suoi. Quindi c'è il premier Giuseppe Conte che dice: ma adesso siamo qui. Oggi ha detto una cosa eccezionale, perché siamo a gennaio, quindi sì, sentiamo. Ha detto addirittura: noi dobbiamo guardare al futuro, insomma dobbiamo preparare la prossima legge di bilancio. Ora, cioè, è fantastico, io trovo che questa cosa sia molto importante, preparare già la legge di bilancio a gennaio. Il problema è quanto durerà il governo e se mai ci arriverà la legge di bilancio, perché ne è appena passata una che è un po' dubbia perché molte cose vengono rimandate. Però vedo che già si pensa alla prossima, c'è un insomma. Ottimismo da parte del premier encomiabile. Lui vuole fare un po' il paciere, insomma, quello che poi nella prima Repubblica faceva Forlani, no? Un po' il pompiere. Quindi comunque lo sai che in politica ci vuole l'ottimismo. Getta acqua di qua. Allora c'è Italia Viva che adesso ha dato 10 giorni di tempo, din, din, din, din, din, sulla prescrizione. Conto la rovescia, sì. C'è il Movimento 5 Stelle, c'è un Movimento 5 Stelle, uno, nessuno, 100.000 movimenti 5 Stelle, da quanto abbiamo visto in questi giorni, perché non tante abbiamo ancora anime, capito. Diciamo tante anime. Diciamo che prima erano un blocco monolitico, tu li vedevi arrivare a Montecitorio, dun, dun, dun, dun, dun, non parlavano, nessuno diceva niente, arrivava l'addetto stampa che doveva dare l'autorizzazione. Questo è stato l'inizio del Movimento 5 Stelle. Sì, lo ricordo. Poi però si sono sciolti da quel punto di vista, sciolti nel senso più disinvolti. Sì, poi c'è stato il direttorio, poi c'è stato un capo, poi il capo si è slacciato la camicia oggi. La cravatta, adesso non arriviamo alla camicia. La cravatta oggi l'ha rimessa, però, perché al Senato è intervenuto con la cravatta come ministro degli esteri, e adesso c'è il caos assoluto. Ricordiamo, Betta, che la maggioranza di governo è formata da 4 forze politiche, le maggiori che sono Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, e poi c'è Italia Viva di Renzi, e poi c'è Liberi Uguali, no? Quindi tu stai dicendo in ordine sparso? Sì, insomma, cioè il Movimento 5 Stelle, che ha una crisi, cioè grossa crisi, quindi sono stati rimandati gli stati generali, ci sono, diciamo, 1000 anime, di cui 2 importanti, quelli che vogliono l'accordo col PD, quelli che non lo vogliono. Già. E quelli che vogliono l'accordo con il PD anche per le regionali, per non scomparire totalmente come è successo in Emilia Romagna e in Calabria. L'altro, c'è il PD. Il PD che chiede però le verifiche sul reddito di cittadinanza, che è il cavallo di battaglia dei 5 Stelle, su quota 100, ma anche sui decreti sicurezza, che sono quelli approvati col vecchio governo, dove verde, c'era però con la Lega di Salvini, il Movimento 5 Stelle. E dopodiché c'è Leo che vuole la revisione del Jobs Act. Quindi io ora sfido a tutto questo in mano al Premier. Quanti Giuseppe giorni Conte. Durerà questo vertice? Quanti giorni durerà questo non so, vertice? Io, guarda, adesso sono dentro da un po' di ore, non c'è niente, non è uscito niente, tranne il Conte che ha detto non stiamo qui a perdere tempo, cioè sono sigillati. E quindi diciamo che come ci sono 1000 anime nel Movimento 5 Stelle, ci sono 1000 anime nel governo. Ora bisogna capire se Conte, nel suo ruolo di paciere, riuscirà poi a trattenere i vari strappi. Diciamo però una cosa, che fino a questo momento il Movimento 5 Stelle, il PD, poi alla fine insieme a Leo, hanno sempre trovato un accordo. Quello che urla un pochino più di tutti è Italia Viva e Matteo Renzi, che ogni volta devono mettere una bandierina, no? Sembra un po' così. Ora, sulla prescrizione per Italia Viva però è una questione importante, cioè una questione identitaria. Loro sono contro la riforma Bonafede, e quindi questa si vedrà tra 10 giorni cosa succederà alla Camera, quando dalla Commissione tornerà in Aula la famosa proposta di legge dell'azzurro Enrico Costa, che è contro la riforma Bonafede. E Italia Viva all'inizio voleva votare con questa riforma, poi l'altro giorno alla Camera ha deciso di abbandonare l'aula, quindi di non creare una frattura all'interno del governo, perché ha detto che il ministro Bonafede si era trovato, cioè era stato abbastanza aperto. Insomma, ci sono molte cose sul tavolo e bisogna capire cosa succederà alla fine di questo vertice e quale sarà la fase 2 del Conte Bis, perché a questo punto siamo curiosi di capire quali siano le priorità di questo governo piuttosto frastagliato. Però c'è Bonafede, che sappiamo in questi giorni è diventato, dopo le dimissioni di Maio, capo delegazione del Movimento 5 Stelle, che ha assicurato: abbiamo fatto tanto, ma ora mettiamo il turbo. Quindi sì, su cosa lo mettono? Devono trovare un'azione di governo, immagino. Cioè, diciamo che devono assolutamente trovare delle convergenze. E lì bisogna capire sulla prescrizione: Bonafede deve cedere sulla durata ragionevole dei processi, perché è chiaro che questo è il gioco, no? Cioè si può fermare la prescrizione, però poi i processi devono essere ragionevoli, cioè non può durare in eterno un processo, uno non può essere accusato in eterno, ecco perché esiste poi la prescrizione. Quindi lui dovrà cedere lì. Su reddito di cittadinanza bisogna capire, perché il PD vuole una verifica, ma il Movimento 5 Stelle non la vorrà mai una verifica su quello che è stato il suo cavallo di battaglia. Sul Jobs Act, che vuole la revisione Leo, mi sembra molto molto difficile che ci possa essere. Quindi diciamo anche il fatto che per esempio Italia Viva voglia e chieda contesti la revoca delle concessioni ad autostrade, perché dice che è impossibile. Insomma, le questioni, dopo un po' di mesi di governo, è normale che ci sia molta carne al fuoco. Chiaro. Bisogna capire come compattare questa maggioranza e queste diverse istanze. Tra l'altro, tra poco, siccome parlerò del rapporto Eurispes sugli italiani, con dati molto inquietanti, comunque, fra le altre cose, calano anche i consensi nei confronti del governo e del Parlamento. Poco più di un quarto degli italiani, il 26,3%, ripone fiducia nell'attuale governo, oltre 10 punti in meno rispetto al 2019, mentre il Parlamento registra un decremento di 5 punti di fiducia con solo un quarto che si fida del Parlamento, 25,4. Bene, con questi dati direi, Betta, ci lasciamo, ti lascio ai Palazzi Romani al vertice. Aperto questo che sarà questa verifica che ancora continua da parecchie ore. Bene, buon divertimento, grazie Betta Fiorito. Grazie a voi. Ciao Betta, viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano sempre con voi, dice Daniela, ma perché gufate sempre? Nel senso, si raccontava insomma qual è la situazione politica, questa verifica di governo con quattro forze che lo compongono, e quindi è chiaro, come si diceva, che ci sono istanze diverse, visioni piuttosto differenti su vari temi. Vedremo quale sarà l'esito di questo vertice, questa verifica di maggioranza. Però facevo un accenno prima con Betta Fiorito anche al rapporto Eurispes a proposito della fiducia nelle istituzioni, nel Parlamento, nella politica italiana, nell'attuale governo. Quindi vi invito a soffermarvi adesso su questa istantanea appunto fatta al popolo italiano da Eurispes, l'Istituto di Ricerca degli Italiani, nel suo 32esimo rapporto Italia 2020. Allora, ne emerge così a grandi linee un'Italia più incattivita, più diffidente, meno tollerante, una frattura tra sistema e paese che produce, dice il direttore generale Fara, numerosi danni anche sul piano economico, mette in discussione la stessa tenuta sociale, cioè la mancata crescita del paese, fenomeni endemici della corruzione, l'imbarbarimento del dibattito pubblico e politico, una sostanziale irresponsabilità della classe dirigente. Ma va detto che tra tutti gli elementi più preoccupanti, un dato particolarmente sconvolgente è che a 3 giorni dalla giornata della memoria, appunto il 27 gennaio, dove si è commemorato il 75esimo anniversario della liberazione da parte dell'Armata Rossa del campo di sterminio di Auschwitz, e dopo che ieri c'è stato questo intenso discorso della senatrice Liliana Segre, sapete, sopravvissuta ad Auschwitz, al Parlamento europeo, emerge in questo rapporto che dal 2004 ad oggi aumenta il numero in Italia di chi pensa che l'Olocausto non sia mai avvenuto. Erano nel 2004, a pensarlo, il 2,7% degli italiani. Oggi sono il 15,6%. Sono insomma, diciamo, a proposito dell'imbarbarimento del clima del nostro paese, i negazionisti, coloro che negano in modo antiscientifico, antistorico e spregiudicato, negano che ci sia stato il genocidio degli ebrei da parte della Germania nazista. Risultano poi in aumento, anche se in misura meno eclatante, coloro che ridimensionano la portata della Shoah. Dell'11% sono passati al 16% quelli che dicono che insomma non è stata una cosa così terribile. Inoltre secondo l'indagine il 19,8% pensa che Mussolini sia stato un grande leader che ha solo commesso qualche sbaglio. Saluto allora Alberto Baldazzi, che è vice direttore dell'Eurispes. Buonasera Baldazzi. Buonasera. Quindi diciamo che la storia evidentemente a molti non ha insegnato niente, e che i rigurgiti razzisti, antisemiti, violenti, fatti di conditi di ignoranza, di sadismo, di questo desiderio famelico di sopraffazione, sono sempre in agguato anche nel nostro paese, Baldazzi. Ma sì, dobbiamo stare attenti ai numeri. Questo numero, che è sconvolgente, non solo apparentemente ma sostanzialmente sconvolgente, non significa però che il 16% degli italiani abbiano fatto il tifo per una cosa come la Shoah dalla parte dei nazisti, fino al punto di negarla. No, in primo luogo c'è ignoranza, questo è l'elemento fondamentale che spiega anche perché a 15 anni di distanza l'ignoranza si sia aumentata anche per l'allontanamento dai fatti reali. 15 anni fa erano 60 anni, oggi non sono 75. Questo è un primo elemento che non vuole, come dire, attutire l'impatto con la notizia shock. L'altro elemento è di natura di psicologia sociale. Farsi carico di una colpa non nostra, di una colpa però umana, della colpa di altri uomini che hanno operato nel passato, è una sorta di autoterapia che, attraverso, diciamo, l'assorbimento del senso di colpa, ci vaccina verso il futuro. Ecco, questa è una operazione che denota come una parte, per fortuna minoritaria ma non insignificante, degli italiani ha poca voglia di fare i conti con la propria umanità e anche con la propria bestialità. Tutto questo potrebbe essere spiegato meglio di me da qualche psichiatra sociale, ma in qualche misura circoscrive l'impatto di questo dato numerico di per sé sconvolgente. Del resto va anche valutato che negli ultimi 15 anni il Paese ha sofferto e quando c'è sofferenza, e sta soffrendo anche in questi ultimi anni, l'individuo, proprio l'antropologia è più fragile, è meno lucida, e tutto ciò coniugato con l'ignoranza porta a scaricare o verso diciamo soggetti come per esempio gli stranieri la propria aggressività, la propria acrimonia, oppure diciamo a preservare da sé gli aspetti di una possibile negatività che come appunto il nazismo simbolicamente concretamente rappresentato manifesta anche la bestialità umana. Già. Liliana Segre ha precisato nel discorso al Parlamento europeo che l'antisemitismo non è stato inventato dai nazisti e che è un elemento, come dire, di aggressività che è in ognuno di noi. Quindi il processo è culturale ma anche politico. Aggiungo una cosa soltanto: 15 anni fa le destre in questo paese avevano in sommatoria circa il 10% del suffragio elettorale. Oggi, se vogliamo considerare destre alcune delle forze politiche che attualmente sono all'opposizione, sono al 40%. E tra l'altro, questo significa che c'è, diciamo, una deriva politica e culturale ben netta. Grazie Alberto Baldazzi. E poi, a proposito dell'antisemitismo, basti vedere anche solo in questi giorni i vari barbari episodi con scritte svastiche sulle porte di famiglie di persone sopravvissute o morte nei campi di sterminio. Grazie Alberto Baldazzi di Eurispes. Buonasera, buonasera. Invece, a proposito di cambiamenti climatici, vorrei parlare subito con Silvio Gualdi, presidente della Società Italiana per le Scienze del Clima. Buonasera professore. Buonasera. Perché c'è l'ufficio meteorologico britannico che ci dà un'altra pessima notizia, dice, prevede che i prossimi 5 anni avranno un caldo record, almeno con picchi fino a 1,62 gradi centigradi superiori alle temperature medie globali dei livelli preindustriali. Pensa che siano attendibili questi risultati, queste previsioni, professor Gualdi? Sì, penso proprio di sì. Non solo penso che siano attendibili, ma penso anche che, come posso dire, ci fosse da aspettarselo, perché sostanzialmente confermano un trend al riscaldamento globale che ormai è documentato da alcuni decenni e che sappiamo che finché non verranno messe in atto delle misure per contrastarlo continuerà. Quindi diciamo non sono dati particolarmente sorprendenti. Ecco, l'unica domanda che le faccio poi per chiudere, professor Gualdi, è loro, gli studiosi dell'Ufficio Meteorologico Britannico, dicono che la causa è l'aumento dei gas serra. Anche questo è un dato effettivo? Sì, sì, come dicevo, diciamo, questo dato che loro hanno pubblicato, che è sostanzialmente una previsione di come evolverà il clima nei prossimi 5 anni, è sostanzialmente la risposta del sistema climatico ai forzanti antropogenici, ai gas serra, per intenderci, che continuiamo ad emettere e quindi la temperatura continua a salire. Quindi diciamo, da questo punto di vista, come dicevo prima, non c'è nessuna novità. Se continuiamo ad emettere gas serra, la temperatura continuerà a salire e i prossimi quinquenni saranno sempre dei record. Grazie intanto professor Silvio Gualdi, ricordo presidente della Società Italiana per le Scienze del Clima. Grazie professore, ci riaggiorniamo brevemente alle 22.